perché si chiama Samuel? Questa è la domanda. Questo, diciamo, sì, è più o meno la prima parte. Nella seconda parte inseriremo l'analisi di questo lavoro che è continuato. Va bene? è possibile che il feticismo, un certo tipo di lettore del feticismo, possa incrociarsi con una tradizione parte sotterranea, parte difficile, parte diciamo, non ufficiale, che appartiene molto alla nostra cultura, ma appartiene moltissimo a tante altre culture, che è la questione appunto della metamorfosi. Sapete che sulle metamorfosi ci sono dei testi classici come quello di Ovidio, che se lo voglio andare a rivedere, insomma, a studiare, insomma, io suggerisco vivamente. Tra l'altro c'è tutta una ripresa di interessi su questa dimensione che è poetica, ma anche naturalmente filosofica, e poi perché no, è fondamentalmente anche antropologica. Ovidio stabilisce appunto questa sua relazione poetica tra queste mutazioni di esseri, le cui mutazioni appunto si incrociano con piante, con rocce, a volte anche semplicemente con sonorità. Se ricordate il grande mito della metamorfosi di Eco con Narciso, adesso non mi metto a dico se non parliamo più, però Eco diventa appunto semplicemente suono. E quindi questo anche a me ha fatto riflettere sulla potenzialità del feticismo anche sonoro, non solamente visuale, no? Ci sono elementi feticismo sonoro che si possono sviluppare con un certo tipo di timbricità, e penso che alcuni brani che vi ho fatto ascoltare, in particolare con gli Aphex Twin, realizzi queste sonorità feticiste in cui elementi, per esempio della musica, delle tecnologie che ho studiato, una certa tecno, una certa elettronica, ma anche dicevi tu, incrocino elementi appunto di un tipo di feticismo. E questa è una cosa interessante che potrebbe permettere, sicuramente per chi fa musica, insomma, se qualcuno di voi è interessato appunto, a fare musica, probabilmente è una prospettiva su cui poter lavorare il feticismo sonoro o storico. Qui ho messo alcune immagini per dare il senso di questa potenzialità metamorfica, tra cui l'Angelus Novus, di cui vi parlerò dopo, l'avevo già introdotto, il quadro di Balogè che Benjamin aveva con sé. Qui sotto c'è un'immagine un po' caricaturale di Adorno, e l'altro è un tipo di architettura dello stesso architetto che ha fatto il monumento funebre a Benjamin. Quindi queste ipotesi, queste cinque note cercano di togliere gli stigmi, queste croste stigmatizzate, stigmatizzanti, questi anche preconcetti, pregiudizi, che si sono sedimentati sul concetto di feticismo, che a mio avviso aumentano tutte queste incrostazioni quando si parla di fetici, no? Perché la cosa diventa ancora più in qualche modo complicata. Anche questo non si vede? Il verde si vede. Io ho messo un'immagine, ho messo Dioniso, perché Dioniso nella tradizione greca, greco-romana, la nostra tradizione non solamente filosofica, ma anche qualcosa di molto più grosso, Dioniso è un'attività metamorfica, no? Non accetta i limiti di una divinità con una identità prestabilita, sia lui come Dioniso, e sia le baccanti, e sia chi segue i rituali dionisiaci, sono dei soggetti che non riescono a stare fermi nelle loro identità. Anzi, il nucleo della tragedia, probabilmente è proprio questa disperata volontà, desiderio di rimettere in moto intrecci possibili tra la dimensione divina, umana, animale e minerale. Vi ricordo che uno dei momenti forti della tragedia nel senso classico era di divorare il toro, e il toro rappresenta Dioniso, è Dioniso, è il corpo di Dioniso. Quindi l'essere umano, l'uomo e la donna, Quindi qui siamo in un concetto abbastanza complesso, è qualcosa che appartiene a una proto-eucaristia, diciamo così, una proto-eucaristia, a un incorporamento, mangiando, divorando di qualche cosa che appartiene alla divinità, al Dio in questo caso è Dio. E proprio questo rituale della tragedia, ristabilisce questa connessione che è stata poi spezzata dai processi di civilizzazione, chiamiamoli così, a me non piace, ma anche perché il processo di civilizzazione spezza questa unità, questo intreccio tra il divino, l'umano, l'animale e anche il minerale, e Dioniso è questa divinità, una divinità che muore, risorge. Una divinità appunto che non ha una identità caratteristica della sua personalità, è un Dio molteplice, un Dio molteplice metamorfico, e in questo senso forse è il Dio, almeno è uno, diciamo così, delle divinità felicissime. Si vede qui? Non si vede questo? Aspetta. Ecco, io ripeto quello che in parte vi ho già detto, questa seconda nota, di togliere le incrostazioni legate alle dimensioni magiche e razionali, cioè lo stesso concetto di feticismo ha incorporato questa matrice coloniale, non c'è niente da fare, non è possibile utilizzare il concetto di feticismo senza un riferimento a questa matrice filologica. Quindi la filologia non ristabilisce l'originale verità del concetto, e questo ci dà molto perché sei caro. La filologia non ristabilisce l'originaria verità del concetto, quindi non c'è un concetto originario di feticismo, perché i concetti, in particolare quello di feticismo, hanno una matrice e poi ha una trasformazione, si intreccia, muta. Cioè i concetti sono come i soggetti, no? Non hanno una identità fissa. Il vocabolario non dà il significato delle parole, cerca disperatamente di dare questo significato. E molto spesso non ci riesce, anzi, frequentemente i significati che stanno dentro il vocabolario sono i significati dati, sono quelli che sono, diciamo così, riconosciuti perché già avvenuti. Ma il significato di un concetto non è solo già avvenuto, capite? Il significato di un concetto è anche in corso di avvenimento, è in corso di produzione, non c'è questo legame fisso tra parola e concetto e significato. Quindi il vocabolario è un trucco in qualche modo, o detto in altri termini, il vocabolario è un polveroso tentativo di dare un significato che fissi una certa logica. Ma, come dicevo, il significato è mobile. I significati dei concetti, specialmente dei concetti più significativi, credo tutti, ma ci sono dei concetti particolarmente significativi i cui significati non possono essere rinchiusi in un modello. In questo senso la filologia è importante. Ma non riassume le potenzialità significative, non riassume le potenzialità significative come quindi il vocabolario. Questo non vuol dire che non ci serva, assolutamente no, anzi, a me, spero anche a voi, avere la filologia delle parole ci dà una ricchezza di cognizioni enormi, ma questa ricchezza cognitiva che ci dà la filologia non ci deve far fermare la potenzialità del concetto legata appunto a una matrice passata. Questo perché ho detto questo? Perché appunto se è importantissimo tutta la ricostruzione che abbiamo fatto, scusate, in fondo potete fare silenzio, grazie. Se è stata ed è importante connessioni di esseri umani, connessioni di schiavitù, insomma tutto il processo che è stato già presentato e che pesa, continua a pesare. Ecco, se potessimo fare una metafora orribile, quindi di vedere quanto di questo passato pesi sul belicismo, quello coloniale è veramente molto pesante. È pesante e ancora non è stato liberato. Non è stato liberato anche dalla sua matrice di dominio. Non è stato liberato perché la questione coloniale non è risolta. Questo è il problema. E proprio nella lezione di oggi lo vedremo. La questione del rapporto con le culture indigene è una chiara dimostrazione che il colonialismo non è risolto nel nostro mondo, non è risolto, sta ancora qui presente e aspetta le nostre scelte. Quindi la matrice coloniale che delinea sia il potere, il dominio dell'Occidente, in particolare dell'Europa, ma non solo dell'Europa, e poi questa dimensione appunto di razionalistica, l'animismo, ricordate questa riflessione su questa animità che dovrebbe caratterizzare le popolazioni non occidentali, non cristiane, questa degenerazione dell'animo, l'animismo come degenerazione dell'animo. E quindi l'irrazionalità, perché felicio a qualcosa di persone, di culture che sono caratterizzate in senso irrazionale, quindi diciamo se tutta preconcetto, naturalmente il razzismo è presente qua. La seconda parte di questa seconda nota, su Freud, il concetto di perversione. Già in Freud veramente il concetto di perversione non ha una dimensione morale, ma in Freud, come abbiamo visto, il concetto di feticismo non è semplicemente l'erotizzazione di una parte di un oggetto tutta la parte del corpo di donna, come abbiamo visto, solamente della donna, o un oggetto che sta a contatto con la donna e che quindi coagula una carica erotica di gran lunga più eccitante di quella sessuale. E all'interno di lui non è solamente questo, ma oltre a questo vi è la sua visione che il feticista è maschio perché nell'oggetto di vizio cerca di ricoverare la nostalgia del bene e della madre mancante. Quindi in questo senso la prospettiva di una liberazione dal paradigma freudiano del feticismo è questa, no? Non rinchiudere il feticismo nel sesso maschile, perché adesso è di genere, come vi ho detto anche l'altra volta, cioè non è determinato dal punto di vista biologico maschio-femmina, ma il feticismo forse per eccellenza è di genere. E quando è di genere l'identità non è sessuale, cioè biologica, è costruita, quindi è bioculturale. Il genere è bioculturale, e abbiamo anche visto che se i sessi sono due, i generi sono infiniti. Quindi questo aspetto del fallo mancante, del maschile e del femminile, della risurrezione, un fallo di cercato, tutti questi sono aspetti in cui il concetto di perversione, pur non affrontato in termini appunto morali, ma in Freud è presente e credo che sia fondamentale liberare il feticismo da questa marca freudiana che lo fissa con fallo mancante, eccetera, eccetera. E quindi Marx le cose non è che sono complicate, questo andava prima di Freud, però. Che succede? Si apre oppure? Grazie. Marx le cose sono complicate naturalmente, ma certo che la dimensione che il feticcio produca solamente alienazione la trasformazione degli esseri umani in cosa, res, che emerge, è in oggetto. Quindi tenete presente che tutte queste riflessioni hanno a che fare con la fatticità, no? La fatticità è res, è merce, è oggetto ed è esempio. Abbiamo visto che questa alienazione del valore, sia dal punto di vista della valorizzazione del merce, però qui abbiamo una dimensione un po' più complicata, se volete lo affrontate quando studiate l'economia, l'economia politica, la critica dell'economia politica. Quindi è certo che il concetto di valore in Marx non è più adeguato a dare senso come cercavo di dare in passato. Ma anche lo stesso concetto di relazione abbiamo visto che si incrocia, è sfidato dal concetto di immedesimazione attraverso cui la stessa merce, quando è prodotta nella fabbrica, produce appunto estrazione, ma la stessa che è esposta in un'esposizione o forse anche in una vetrina, produce immedesimazione. E allora una delle cose in cui vi invito anche a riflettere dal vostro punto di vista è la merce visuale, cioè la merce visuale, il feticismo visuale, che tipo di immagine dà? È un'immagine in cui questo mix di alienazione e identificazione si incrociano? Ci sono croste alienanti e croste identificative? O forse perché croste pixel? No? Ci sono fasce di pixel che favoriscono la replicazione e ci sono altre fasce di pixel, cioè delle immagini visuali che danno un senso di immedesimazione. Ieri stavo vedendo il video music che c'era un clip dei REM, che non in Italia facciamo REM, ma c'è un IEM, che era basato su questa esplosione continua di pixel. Non so se qualcuno di voi l'ha visto. L'avete visto? Nessuno l'ha visto? Non lo so. Ma, però si riconosce facilmente perché costantemente le immagini visuali ci sono esplosioni di pixel che sembrano mettere in discussione alcune cose, poi ovviamente la musica cerca di affermare. E allora mi domandavo se questi musicisti, poi tra l'altro sono un gruppo musicale che a me piace molto, e che riescono a tradurre o far convergere, adesso non so, le loro musiche con dei video sono sempre molto molto belli, no? Sono sempre innovativi i video di Renda. Allora mi domandavo se quest'ultimo aveva questo significato di favorire un po' un'immedesimazione, un'alienazione. Poi con una grande sorpresa, la pubblicità di MTV era esattamente uguale. Cioè subito dopo la fine di questo video, che normalmente sono considerati musicisti radicali, sia dal punto di vista musicale, ideologico, politico, e beh, hanno un'identità, diciamo sì, radicale, pubblicamente radicale. Bene, subito dopo, la stessa tecnica di questo video, ripeto, radicale, era pubblicità di MTV. Allora mi sono domandato se questa esplosione dei pixel, che fa saltare una logica, diciamo sì, discorsiva, la faccia veramente saltare, oppure il modo di far saltare la logica discorsiva è la maniera per dare immedesimazione. Non so se avete sentito il ragionamento. Cioè, non stiamo più a un livello di metacomunicazione, ma stiamo a un livello di metacomunicazione. Cioè, MTV, la pubblicità, ha imparato a sviluppare la critica della comunicazione visuale. Ed è proprio attraverso questa esplosione, la critica, diciamo così, metacomunicazionale dei pixel, che si produce anziché questa reazione in medesimazione. Capite? Quanti giochi di specchi avvengono una volta che due codici assolutamente diversi, i REM e la pubblicità di MTV, consecutivamente, poi neanche dopo chissà quanto, perché casualmente stavo là, consecutivamente mostrano la stessa tecnologia, quindi la stessa, diciamo, visione, e lì c'è una dimensione di critica, c'è una dimensione, oppure appunto questi intrecci tra alienazione elettrificazione si rendono così complessi per cui ogni volta noi dobbiamo salire un po' di livello. È sempre un po' più complicato capire dove inizia la critica e dove è l'apologia della critica sotto veste di critica. Capito? Ecco, queste sono tutte riflessioni che ho fatto precedentemente, ma che anche osservando pubblicità e un video come questo di Lerbo, si sono tornate, le aggiunte. E infine vi è un senso comune, su cui pure mi piacerebbe un vostro riscontro, il senso comune sul concetto di felice è sempre qualcosa di un po' sporco, no? Ha a che fare con qualcosa un po' peloso, qualcosa insomma di appunto di perverso, no? Un lato oscuro tra primitivo, pornografico e moda, in cui si capisce più se è moda, se è un gadget di qualche sito di opera porno, oppure che cos'è insomma. Per cui è questo senso comune del feticismo, in qualche modo è come se riassuma tutti quelli precedenti, no? È come se queste dimensioni irrazionali, alienate, identificative, perverse, stanno un po' fruttano tra il concetto comune di feticismo. E questo ne fa una cosa quindi ancora un po' più complicata. Io ho messo un feticcio vero, perché infilando chiodi in questa testa, naturalmente il risultato sarà immediato, secondo certe concessioni, un'altra testa. Si legge qua? Non si legge? Qui come terza nota ho messo un cerchio di metro si chiama? Metro. Di Man Ray, ancora una volta Man Ray, che ha messo dove ritma il tempo c'è un occhio, e qui ho messo di nuovo il nostro, chiamiamolo, fagiolo di Kapoor, che a Chicago fa questo rispecchiamento molteplice. Ecco, questa terza nota è cercare le potenzialità espresse dalle cose. Già l'ultima lezione, se la ricordate, ho cercato di sviluppare questo concetto, che è uno dei concetti mai più belli, di sottrarre alle cose l'utilità. Ricordate? Sottrarre alle cose l'utilità. Liberare, se il processo è se riusciamo a liberare questo marchio di utilità, e quindi di strumentalità e di funzionalismo delle cose, ecco, allora si realizza qualche altra cosa che ha a che fare ovviamente col collezionismo, che anche ad altri livelli. Anche vedete, questo sia Man Ray in alto, no? Il metronomo diventa un occhio danzante, un occhio ma anche questo altro occhio, faccio l'occhio guida, no? Che sta lì, è come se sfidi. E tutte e due sfidano la semplice unidirezionalità funzionalista delle cose. Quindi liberare l'utilità delle cose all'utilità, e poi altri due concetti su cui un po' tutto il corso si è basato, no? Liberare il dualismo. Le forme di dualismo io lo vedo una sorta di ministro degli interni del pensiero universalista. Il dualismo è un ministro degli interni, cioè è una specie di polizia che cerca di dare costantemente il suo proprio ordine a quello che è disordinato, no? Per cui se tu non sei bianco e nero, sei costretto a essere un bianco o nero. Se tu rifiuti il bene e il male come dualismo, il dualismo ti costringe a stare o se nel bene o se nel male, come si diceva il terzo mondato. No. Altri livelli non sono tali, e per questo il dualismo è Chico, tra l'altro che è stato elaborato anche da un famoso filosofo che è Machinte, adesso non entriamo dentro, è come se il politico si costruisca attraverso l'opposizione nemico-amico-nemico. E la costruzione del politico attraverso l'amico-nemico non produce liberazione. Questa è la mia ipotesi. Se si fa politica riproducendo l'opposizione binaria amico-nemico, si ricade dentro la logica del dominio, non si esce fuori. Allora, per uscire fuori da una logica del politico che è basato sulla dialettica amico-nemico, bisogna entrare dentro, diciamo così, non solo, ma certo, le potenzialità del feticismo, che non sono dualiste, abbiamo visto, il feticismo non è dualista, è oltre. Oggetto e oggetto, oggetto e soggetto si incrociano nei livelli che non sono più determinabili dualisticamente. Quindi questa forza da polizia, del ministro degli interni, da polizia del dualismo, ecco, mi suggerisco di andare sempre, insomma, speriamo che. E il dualismo, come dicevo, è lo strumento armato del monismo universalista. Pensiero monista, universalista, è un pensiero del dominio. Allora il feticismo è una potenzialità nella sua disarticolata differenza, nelle sue eccessive quasi, no? Disordinazioni, dislocamenti, decentramenti, tutti questi aspetti di fluidità decentrata del feticismo mette in discussione il monismo universalistico, è sfuggente. Qui io purtroppo non l'ho messo, ma magari ve ne darò un'altra volta, sì, ecco, se c'è l'ultimo giorno probabilmente, perché qui entriamo dentro, questi due concetti, a una figura straordinaria di tante culture, ma che è stata studiata in particolare tra il Winnebago, nativo di quelli che sono gli Stati Uniti, che si usa anche la parola inglese, che è il trickster. Io ve lo segno perché dimensione, diciamo così, di feticismo, scontra il cesta metamorfico, mette in discussione questi modelli che vi dicevo di dualismo e di universalismo. Poi c'è la quarta nota, si legge quando si legge. Ho fatto la cosa più raffinata perché vedete il marrone e quella l'azzurro. Questa parte già l'avevo detta, quindi ci sono degli incroci, a volte mi rivedo, insomma, è la questione dell'utilità. Ma il fatto che la dimensione vitale stabilisce delle mutazioni sulla distinzione cosa-soggetto, cioè cosa-soggetto o soggetto-oggetto, ma dando al termine di cosa la dimensione più pesantemente materiale, ecco, qui fuoriescono appunto da questa dimensione di utilità e quindi, cose che non ho detto prima, diventano vitali, diventano vive. Io ho messo, vedete, ho sempre avuto un po' un fascino per le meduse, di cui adesso non vi parlerò naturalmente, però vedete quanto è per me almeno sensuale questa immagine di meduse. Qui è un gioco invece che è stato fatto da alcuni fotografi di cogliere elementi antropomorfi in un albero. Allora, anche questo, per quanto tanto antropomorfico e giocoso, però insomma forse dà il senso in parte, diciamo, di questa espansione della soggettività nelle cose di materia. La quinta nota cerca un po' di dare una sorta di polifonia a tutto quanto detto precedentemente, quindi è un oltre, ancora una volta non è un contro, è un oltre, la dimensione sonica o oltre la religione, la metafisica, la perversione e l'alienazione. Queste quattro armate, diciamo così, fonte di spesso, insomma, da questo punto di vista, no? Di dualismi e di universalismi, possono essere oltrepassati da questa orale immanenza polifonica del feticismo, cioè questa sacrale vitalità che cerca di sviluppare questi concetti sensoriali in forma non antropocentrica e in qualche modo una nuova antropologia. Questa era più o meno quanto io volevo mostrare, allo stesso tempo il finale, come vi avevo promesso, se poi avete delle domande per fare dopo, il finale di questa canzone di Laurie Anderson. Laurie Anderson è una cantante all'inizio tra le più significative perché è considerata, insomma, una delle prime che unisce le nuove tecnologie elettroniche con il canto, ma anche con delle performance, eccetera. Questa canzone è molto strana, è veramente molto complessa. Io vi vorrei leggere anche un po' brevemente il testo, perché non so se si capirà, ma insomma è una canzone dell'unica cantante al mondo che io sappia che ha dedicato questa canzone a Walter Benjamin. E l'ha dedicata in un modo abbastanza veramente singolare, veramente la poesia, la musica e poesia. Perché? Qui è divisa in diverse parti. Allora, nella prima parte affronta una grande fiaba che probabilmente tutti quanti voi conoscete, quella di Hans e Gretel. Dov'è Hans e Gretel? Una favola, un mito, insomma, almeno una fiaba che terrorizzava e poi divertiva, cioè, molti bambini. Solo che qui che fa? Lei, cioè, Laurie Anderson, trasporta questi due fratelli, li fa diventare adulti, li fa vivere a Berlino, nel Berlino di qualche anno fa, contemporaneo, anzi in Grecia, e li fa diventare qualcosa di altro. A un certo punto mi racconta tutta questa prima parte di storia, poi come se niente fosse, inizia a presentare in forma appunto musicale niente meno che la tesi di filosofia della storia di Benjamin, che parte dall'Angelus Novus, che adesso vi metterò. L'angelo Snobs, dicevo, è questo angelo che è sospinto da un vento verso in avanti, cerca di voltarsi indietro, ma non riesce a fermarsi, non riesce a, neanche a riflettere, e ogni volta che riesce un po' a portarsi indietro, appunto, vede macerie. E le macerie, dice bene, qui ripete l'Oriente, ma sono, è il vento del progresso. Il vento del progresso è un vento che produce, lascia macerie dovunque passi. In questo senso la storia, dice bene, la storia aspetta un processo di liberazione non solamente di Pietro, questo è uno degli aspetti più forti di Benjamin, no? Il processo di liberazione per Benjamin è basato anche su tutte quelle persone che hanno sofferto l'ingiustizia, quindi anche tutti i morti, tutti i tempi devono essere liberati da questo progresso che lascia costantemente macerie. Cioè, questo è il senso della, di questa musica. Io adesso veramente spero che capiate le parole, comunque, come sapete, la musica si ascolta non solamente per la parola, anche naturalmente, ma anche per l'autonomia. Tanto c'è. Vi faccio per la prima volta, vi faccio una raccomandazione che spero accettiate. È una musica molto dolce e delicata, appassionata, un po' disperata. Vi chiedo di fare silenzio, di fare silenzio. Chiedervi, sono 2 minuti, 3 minuti di silenzio ascoltando l'Oriente. Thank you. sento male, si può chiedere, no? Probabilmente era un modo di sentire più forte, ma rischiare non ci sono riuscito. Chiamo i nostri due rappresentanti, allora vi distribuiremo mettetevi chi ha fatto rimette là nel primo banco rosso. Thank you. Nemmeno mi sono ancora iscritto all'esame, perché ho la connessione che non funziona in questo momento. Posso andare in segreteria a farlo? Sì. Mettilo. Anche politiche, filosofiche, religiose, affermano appunto visioni universalistiche. Queste visioni universalistiche in parte fanno riferimento in parte alla piena modernità, no? Per esempio il concetto di illuminismo è un concetto universalistico. L'illuminismo era un tipo di filosofia che voleva trasformare i rapporti tra naturalmente tra gli esseri umani, con le scienze, le tecnologie, il lavoro, la produzione, eccetera, attraverso appunto una ragione, la forza di una ragione che illuminando le oscurità terribili del mondo, quindi rischiarando gli aspetti oscuri, liberasse l'intera umanità da queste forze appunto tradizionali. Anche il marxismo una concezione universalistica. Ricordate, una delle parole che non sentire in fase di Marx era il proletariato liberando se stesso libera l'intera umanità. Ma il proletariato non libera semplicemente se stesso, non è una forza politica sociale che si ferma liberando le proprie condizioni di lavoro, eccetera, sicuramente, ma è l'intera umanità che deve essere liberata. Anche la psicoanalisi è una forma universalistica, il complesso di Edipo, l'ho detto più volte, spero che tu c'era la dimensione, per noi nostri, era una dimensione universalistica. Molte religioni sono universalistiche. Questi aspetti degli universalismi, campo politico, religioso, razionale, filosofico, sono entrati in crisi, alcuni sono entrati in crisi, altri meno, sono poi ognuno diciamo, ha la sua posizione. La mia posizione è che sono tutti i pensieri, le formule, i modelli di ragionamento, di religiosità a carattere universale, esprimono qualche cosa che eliminano le differenze. Quindi sei accettato dentro una dimensione universale solo se tu elimini le tue specifiche differenze oppure se queste differenze sono assolutamente marginali, che è un modello che, come spero che sia facile, è legato al concetto di Stato. Lo Stato quando nasce nella modernità che è l'Occidente è uno Stato che non ammette le differenze al proprio interno, o ti omologhi o sei espulso o eliminato. Bene, queste concezioni universalistiche, che a mio avviso agiscono praticamente nella vita quotidiana grazie al dualismo, quindi c'è una sorta di alleanza tra universalismo e dualismo, per cui l'universalismo programma alcune leggi, valori, metafisiche, universali. Scusate tanto. Scusa, sto a lezione, ti chiamo dopo. Ok. Sui libri, anche se almeno, dico l'università non può essere basata semplicemente con la lettura dei testi, perché è un altro tipo di università. Cioè, se ne va frequentata, va elaborata, ad esempio uno studente mi ha detto che ha avuto l'idea di presentare una musica polifonica dissonante, trovo veramente molto bello il modo di dare un esame in cui si presenta un brano musicale fatto da lui stesso, lo studente stesso, in cui alcuni elementi del programma si trasformano in musica. Ecco, questo mi sembra il modo giusto di fare l'università. Se poi non arriva l'ultimo giorno non dipende da me, insomma, non dipende da me. Beh, adesso inizia la seconda parte, e la verità inizia con molto affanno, io sono molto angosciato, perché in questa parte del programma, sulla seconda parte monografica, sui Bonoro, la cultura Bonoro, il rituale funebre, non solo funebre, la linea di polvere, sarebbe dovuta cominciare almeno da due lezioni. Purtroppo per le cose sono andate così, io sarò costretto un po' a accelerare i termini anche dei vostri preti, perché se continuate ad arrivare dopo mezz'ora le cose saranno più complicate. Quindi inizio adesso da una parte monografica su però non c'è tutto l'indigene e dico sinceramente questo. Adesso cercate di aprire una dialogica incomprensibile, no? In cui gli elementi cognitivi non sono dati, perché probabilmente rispetto alle cose che vi ho presentato, esatto, criticato sul criticismo visuale, potrebbe sembrare molto distante affrontare adesso le culture indigene, in particolare il loro. Io penso, e questa è la sfida mia personale, che nel corso di queste ultimissime lezioni sarà possibile da parte vostra, anche da parte mia, io ovviamente l'ho trovato, non spero che sia anche così per voi, di trovare dei canali, degli intrecci tra queste cose che sembrano profondamente diverse, potrebbero sembrare appunto mondi dualisti, la cultura digitale, i diritti visuali e dicono, possono sembrare, invece proprio no. Invece io cercherò di dimostrare che le cose si intrecciano. Allora, per affrontare questa parte del programma, faccio prima, diciamo, sì, alcuni, presento alcuni aspetti anche biografici e personali, perché io quando ho cominciato a fare ricerca in Brasile, avevo cominciato a fare ricerca sulla città, sulla metropoli, su San Paolo, ho fatto una ricerca sulla comunicazione metropolitana a San Paolo, che è una grande metropoli, magari ne parlerò l'ultima lezione forse su questo aspetto. E la mia formazione era un tipo di formazione perché non avevo un addestramento e neanche una pratica, neanche tantomeno un'esperienza sulle culture cosiddette indigene, che come sapete non si sa mai come chiamarle, perché indigene anche non sono indigeni, e quindi se uso dei termini che sono sempre molto molto allora, diciamo, questa prima fase della mia ricerca in Brasile, che inizia a metà degli anni 80, assume nell'inizio degli anni 90 una differenza. Perché? Perché tramite una mia amica, antropologa di Rio de Janeiro, mi invita a fare una prima esperienza in un contesto indigeno, che è in Argentina. Non so se conoscete Iguassù, anche semplicemente nelle carte geografiche, se non lo conoscete, io vi dico questo, andateci. Se non conoscete Iguassù, non conoscete mai uno dei vostri più belli del mondo. E voi andate in Iguassù? Ah sì, sì, è un film abbastanza complicato. Iguassù è una frattura della terra che attraversa, non casualmente, quindi vedete anche con metafora, facciamo una metafora una volta tanto della geografia, attraversa tre stati del Sud America, il Paraguay, l'Argentina e il Brasile. Questa frattura, che è enorme, favorisce un salto, anche un panorama di questa acqua potente, potentissima, e curiosamente per me è stato uno dei momenti, specialmente la mia volta, che sono andato lì e comunque mi sono sentito veramente trasformato, no? Una forza della natura che non ti permette di rimanere dentro, ti trasforma anche fisicamente, il motore acqua è così forte, no? Ti bagna, ti prosciuga e ti ristilizza, diciamo così, non è veramente incredibile. Beh, Iguassù, vicino a Iguassù, dal lato argentino, c'era un villaggio Guaraní. I Guaraní sono una popolazione, una delle più antiche, ovviamente, precolombiana, si dice il termine, questo è molto discutibile. I Guaraní erano forse la cultura più organizzata, più forte, quando arrivarono i spagnoli, i portoghesi, quelli controllavano tutte le fasce costiere all'inizio del Cinquecento. E io sapevo che in questo piccolo villaggio Guaraní ci sarebbero stati anche due sciamante, e gli sciamante stanno nel Brasile, nello stato del Brasile, mentre i Guaraní stanno in parte nello stato argentino, in parte nello stato brasiliano, anche nel Paraguay, sono un po' disseminati, gli sciamante stanno nel Brasile. Se allora questo, adesso avremo tutta la storia strana, perché poi questa mia amica non chiede, io mi trovo solo, ma casualmente riesco a trovare dove c'era questo appuntamento, vado lì e incontro una persona che diventerà mio caro amico, da questa immagine infatti che parliamo, che si chiama Domingos, che è, come potete sentire, che è assimilato ai nostri sistemi, e cognome, diciamo così, sciamante, che è Mahoro e Ho, che magari trascriverò un altro. Bene, qui succede una cosa, quindi un'esperienza che accumula elementi di enorme perturbazione. Perché la prima cosa che mi stupisce, io sto lì solo, ma ci stanno altri, diciamo, due giovani studenti di Rio, di Rio de Janeiro, e c'erano due sciamante, che era Domingos e il fratello, che si chiama Archimedes. Questo è stato caratterissimo di noi brasiliani. Archimedes, come Archimedes. Quindi mi trovo in questa storia di riferimento, la mezzo nuova, mai fatta ricerca sul campo in un contesto indigeno, mi trovo praticamente solo, non ho conoscenze dirette, perché la medica non c'è, gli sciamante sono considerati ancora adesso profondamente guerrieri. Il termine portoghese che si inventò per italiano è bravo, ma bravo non nel senso bravo, ma bravo lo usava Manzoni, ma guerriero, ma forte. Sciamante, che si scrive con la X, Xavante, ma si pronuncia Sciamante, sono stati tra gli ultimi ad essere sconfitti militarmente dall'esercito brasiliano, sconfitta militare, perché gli sciamante appunto hanno una grande tradizione guerriera, e pur essendo stati sconfitti militarmente, ancora adesso, quando ci sono dei problemi politici, tipo i Paseineros, grandi protettori che invadono le loro terre, se gli sciamante entrano in armi, se ci sono 200, 300, 500, 1000 guerrieri di sciamante, dico la verità, mettono paura, sono forti, hanno veramente una forza fisica, politica, veramente impressionante. Beh, e questo è ancora più forte, perché in questo contesto dei guerrieri viceversa stanno nella dimensione di debolezza politica e alimentare, diciamo così, neanche simbolica. Quindi mi trovavo con queste persone, guaraní, che vivevano in una condizione disperata. Disperata. Io non avevo mai visto persone vivere in quel modo, in una condizione disperata. E gli sciamante, due sciamante che stavano lì come antropologi. Perché stanno lì per capire la loro cultura, la cultura dei Guaraní, che è la loro, con un linguaggio differente, perché loro parlano sciamante e portoghese, e i Guaraní parlano spagnolo e Guaraní, e quindi sono due lingue, insomma quattro lingue incomprensibili per loro. Allora, che ha fatto Rigo? La prima cosa che mi ha colpito, ha fatto quello che c'è scritto proprio nei manuali di antropologia. Ha preso un foglio di carta e ha cominciato a scrivere le parole principali in portoghese. E vicino ci scriveva, insieme a un altro collega, le parole in spagnolo. Allora, per cercare di iniziare a comunicare, ha creato un transvocabolario, diciamo così, in cui sciamante, guaraní, portoghese e spagnolo venivano scritti, perché lo scriveva probabilmente, i guaraní un po' meno, e questo è stato l'inizio di un lavoro antropologico. Mi ricordo il Tarquino. La seconda cosa era l'informatore. L'informatore Domingos lo scelse subito, era un cacique. Cacique, che scrive cacique, è, diciamo, chi rappresenta il potere politico di un villaggio. Solo che questo potere politico, il cacique, nel testo indigeni, è un potere politico orizzontale. È come se fosse il rappresentante della propria cultura. Non ha un potere verticale, non può comandare. Per questo uno dei libri più belli su queste culture si intitola La società senza Stato. Queste popolazioni non avevano Stato e ancora non ce l'hanno, è complicato, però ce l'hanno con noi. E anche per questo spagnoli e portoghesi hanno vinto facilmente. Capite? Perché lo Stato favorisce un'organizzazione anche militare, anche di divisione di ruoli. Chi coltiva, chi fa la guerra, diciamo così, no? La più grande distinzione è questa. Le persone, ci sono alcune persone che coltivano, altre che sono emancipate dal lavoro agricolo e fanno i soldati. Questo è, grosso modo, la nascita dello Stato permette ad alcune persone di emanciparsi dal lavoro e di fare la guerra. In questo modo la guerra si professionalizza e i contadini nutrono chi fa la guerra. Non solo loro, ma anche i sacerdoti. Bene, questo non c'era in queste situazioni, diciamo, politiche. Per questo il termine società senza Stato è un termine interessante, perché società non è contingente, ma insomma tenete presente che erano appunto senza Stato, senza una forza centrale, militare, in grado di opporsi agli altri. Quindi cacique, sì, espressione politica del villaggio, di ogni villaggio a cacique, ma che governa insieme ai maschi adulti, insieme ai maschi adulti. Per questo è una concezione orizzontale di quella che è una politica dove in genere le donne sono escluse. Allora, Domingos sceglie appunto il cacique come suo informatore e comincia a cercare di capire come funziona l'agricoltura. Allora, l'altro grande problema che emerge subito è questo. Le culture indigene, guaraní, ma non solo quello che vedremo, hanno un grandissimo problema: la terra. La terra è stata loro sottratta. È stata sottratta non solamente tanti secoli fa, ma anche recentemente. La sottrazione della terra a queste popolazioni ha prodotto un collasso non solamente economico, ma simbolico e culturale, perché la terra non è solamente uno strumento di produzione. Poi tra l'altro la stragrande maggioranza di queste popolazioni sono cacciatori e raccoglitori. Allora, le popolazioni cacciatori e raccoglitori, non so se lo sapete, mettono il villaggio in una certa zona. In questo villaggio iniziano a cacciare, a raccogliere, a fare anche un po' di agricoltura, diciamo così, leggera. Poi, dopo un periodo di tempo, che il genere può essere 5, 6, 4, 5 anni, lasciano questo villaggio, lo bruciano e si muovono. E viene seguito. Quindi queste popolazioni avevano necessità di un'area molto vasta in cui transitavano, perché sono nomadi, capite? E anche questo di differenza di chi fa lo Stato, no? no? Lo Stato, territorio è dato. Quindi le popolazioni, queste popolazioni diverse sentono noi, cambiando sempre di zona e bruciando in modo controllato tra l'altro, le piante, le steppe, eccetera, dopo, quando dovessero ritornare lì, il fuoco lì aveva sedimentato, aveva favorito la, come si dice, la terra si era nutrita di nuovo, era diventata fertile, le ceneri si erano mescolate, eccetera, cioè, buona terra, insomma, praticamente tornando lì, il fuoco serviva a favorire l'agricoltura anche, o la crescita delle erbe, degli alberi di nutrimento, quindi non era distruttiva. Questa dimensione ecologica delle culture native che giravano, che transitavano per tanti villaggi, degli incendi, nel bruciare il loro villaggio, anziché elemento distruttivo, è un elemento che favoriva la rinascita della terra. Ecco, come dicevo, quindi questo aspetto sia nomadico, sia di cacciatori, di raccoglitori, se non c'è più la terra, se non c'è le foglie, non c'è gli alberi, non ci sono neanche gli animali. Per cui cacciare non ha senso. E la caccia appunto ha un'altra potente funzione simbolica, non è solamente nutrimento, non è solamente mangiare. La caccia produce veramente la soggettività di queste popolazioni. E anche lì, la regione, i miti di queste popolazioni sono legate in parte naturalmente alla caccia. Quindi questo guadagnino spiegava che la situazione allora era drammatica perché non avendo più terre, avevo questo piccolo pensamento di terra, non si poteva neanche coltivare, avevano fatto delle specie di case in legno con i tetti immaginabili, i tetti erano di lamiera. E stavano in una zona in cui il caldo arrivava solo ai 50 gradi, immaginate voi entrare dentro una casa, una piccola casa, quelli di lavanda, di legno, con il tetto di lamiera, si entrava lì e se fuori erano 50 gradi, dentro erano 80. Era una situazione veramente insopportabile, era invivibile stare là, era veramente invivibile. Ed era, intorno alla cosa che ha detto lei, perché ci tengo a dirla, era il 1992. Vediamo se lo capite, perché è importante, il 1992. Perché era così importante per tutti le popolazioni americane, per Colombia. No, chi l'ha detto? Era il 500 anni, cioè 500 anni dalla cosiddetta scoperta dell'America, Colombo. Quindi che stavano nascendo? A Genova c'erano grandi festeggiamenti, a Barcellona uguale, a Madrid pure, tutti festeggiavano. E chi non festeggiava? Vediamo solo che qui. Le popolazioni americane. Mi sono trovato in una delle esperienze più commoventi della mia vita, in una piccola scuola, dove una professoressa insegnava guaranino e spagnolo a dei bambini che dire denutriti e poco, perché il denutrimento sapeva come era la pancia, avevo delle ferite, le cose che non ho mai visto, le ferite sulla testa, non erano semplicemente ferite, erano un coagulo di moscerini, perché moscerini, mosquitos, mangiano anche il sangue, si nutrono di sangue, per cui tutti questi bambini pieni di ferite erano anche pieni di moscerini attaccati e neanche cercavano di togliersi, capite? Cosa per me assurda, neanche io con la mano, tanta era l'abitudine avere moscerini al tocco e non e anche gli occhi, insomma, tanto. E da mangiare, questo lo voglio ricordare, da mangiare avevano i resti che arrivavano dei pentoloni in una caserma dei militari argentini che era lì vicino, venivano questi resti, tipo pezzi di pane, di osso, di grasso, un po' di riso, che venivano rimescolati nel fuoco e la maestra stessa, dava da mangiare a questi bambini questi, diciamo, dei resti, veramente. Qui la maestra mi dice, questa maestra, noi festeggeremo l'11 ottobre del 92, perché il giorno della scoperta è 12, festeggeremo il giorno prima della cosiddetta scoperta, in realtà conquista, perché è stato l'ultimo giorno dell'autonomia, dell'indipendenza, della libertà di queste popolazioni. Questo aspetto di celebrare appunto il giorno prima, se già possiamo stabilire una relazione con lo stupore, no? Non è solo l'attimo prima, è il giorno prima di una data che immagino per tutti voi è una data normale, è la data della storia, anche della bellezza, non so, Colombo, insomma, tutta la storia scoperta da me, ora di vedere queste popolazioni in una condizione di vita che vi dico era ai limiti della sopravvivenza, che raggruppavano le loro forze per festeggiare l'11 ottobre, veramente è stata una cosa che a me mi ha dato una profonda modifica, nel senso, ecco, di capire che cosa vuol dire posizionarsi, capite? Che voleva, perché un conto si legge, io la volevo queste storie, dico, sì, conquistatore, strage, sì, tutte cose che io sapevo, ma un conto aver letto i libri è un conto sentire le persone che dicono posizioniamoci all'11 ottobre, capite? Questo per me è stato veramente l'attimo prima, senza che ne avessi una consapevolezza, però certo mi ha dato una modifica profonda. L'ultima cosa di questa prima esperienza che voglio dire è che a un certo punto c'era un campetto di calcio, è una piccola cascioeta, una cascata, e questi guaraní per fare un po' di soldi la domenica facevano entrare gli agenti poveri, abbiamo detto pagavano pochissimo naturalmente, e lì c'è una partita di calcio. La partita di calcio è tra Guarani e Sciavante contro gli argentini. E la cosa strana è io, che io, che avrei voluto giocare con Guarani e Sciavante, veramente, divento arbitro. Devo diventare arbitro questa partita. La partita si gioca alle 2 in un campo di calcio, totalmente verso un fiore, ma mi posso sempre immaginare alla fine di questa partita come ero ridotto, perché nel senso veramente ero diventato cotto, ero un po' pericoloso. Beh, la cosa straordinaria è che lì, cioè, domenica c'era l'incidente, aveva una diffidenza, non si fidava, giustamente. Per una serie di cose, lui a un certo punto comincia a avere fiducia nei confronti e la fiducia la manifesta dandomi i suoi documenti durante la partita di calcio. Allora, che cosa c'è? Durante questa partita, gli Sciavante, che erano 12, avevano una prestanza fisica forte, erano più prestanti, non solo dei guaraní, ma anche degli spagnoli, erano potenti, e la partita qui 2-1 con i due gol fatti da Archimedes, il giovane Sciavante, e non vedevo quello che è successo. I guaraní per fare un tipo di questo tipo, se non è che sono più forti voi, neanche, non era un tipo del suo violento, era proprio un tipo, come dire, siamo noi più forti, no? Siamo, un tipo che invece era andato molto, non lo so dire, in senso di cattiveria. Beh, insomma, questo nasce un'amicizia con Domingos, lui mi invita nel suo villaggio, io lo dico anche a Roma, lui viene a Roma e viene durante i corsi universitari e fa delle lezioni, vi dico, le lezioni di Domingos sono veramente straordinarie, veramente bellissime. Lui è un grande oratore, anche Domingos è un cacique, e specialmente poi in questa zona il cacique deve avere una grande arte oratoria. Il cacique sanno di nuovo parlare, fanno tantissimo. Bene, vi assicuro che alcune delle persone più belle delle corsi passate ha fatto Domingos sulla cultura sciamanica. E quindi lui poi mi invita nel suo villaggio, io vado, il villaggio si è fatto grosso, adesso vi mostrerò, e comincio a fare delle ricerche. Quindi De Domingos ha i tratti caratteristici della sua cultura in questo rituale, un rituale molto appassionante, è un rituale che si chiama Fura Santa Soleigas, cioè gli adolescenti devono forare le orecchie, perché dopo aver forato le orecchie diventano adulti, e il forare sono forati dei orecchini, insomma, dei baleni, dei palitoni, dei canicolo, tutto di rosso, che ha anche qui una forte dimensione sessuale, cioè i giovani sciamante solamente dopo che sono forati possono forare, possono avere cioè rapporti sessuali. Quindi un rituale di iniziazione sessuale, ma non solo sessuale, anche di guerrieri, no? Che vedete, infatti, se vedete nell'orecchio c'è questo orecchino. Bene, un rituale molto complesso, di adesso non vi parlerò, ma è un rituale che dura alcuni mesi. Io non ho potuto partecipare a tutto per una serie di motivi, ma ci sono dei momenti di grande emozione su tutti. Non so se avete mai sentito parlare della danza del sole, ecco, la danza del sole è veramente una cosa di grande emozione che riesce avanti tanto. Vi mostro un'altra immagine. Questa è una danza preparativa, tra l'altro vedete, lui era appassionato di Gullit. Gullit era un giocatore all'epoca del Milan, e il Milan ha i colori del rosso e del nero, e gli sciamanti usano il rosso e il nero, perché pensavano di avere di essere appunto tifosi della squadra del Milan, purtroppo. Qui vedete ci sono anche i bambini, cioè in questa... Anziano di cui è il padre di Domingo, si è poi purtroppo morto. Sono tutta una serie di cose. Qui vedete il villaggio, è il villaggio classico di indigeno, di paglia, legno, fango, con il muro qui in alto da cui esce il fumo, perché dentro la capanna ci sta sempre il fuoco, perché il fuoco favorisce, ci sono i moschitos, sono molti moschitos il fuoco del legno. Ecco qui, vedete questo e poi vedete questo. Allora, credo questi sono i sciamani. Questa è la scuola dove il maestro insegna alle ragazze, anche ai ragazzi, qui sono tutte ragazze, vedete, come si usa il computer. Allora, questo è un'altra grande lezione, anche per pensare alla prospettiva. Ci troviamo di fronte a delle culture che in qualche modo riescono a interconnettere la forza del loro linguaggio orale, musicale, corporale, con quello digitale. La tecnologia del libro, che pure è presente, non è che esclude la tecnologia del libro, ma la tecnologia del libro è come se rappresentasse, adesso la taglio forte, l'era industriale. È come se quindi qui ci troviamo una potenzialità che il digitale si intreccia con livelli culturali, morali, eccetera, eccetera, e può superare, andare oltre la forza cognitiva della tecnologia del libro. Qui quindi ci troviamo di fronte, precedentemente apprendo, sicuramente le ragazze apprendono molto precedentemente a usare il computer, e questo favorisce in questa cultura, dice diciamo, sono guerrieri, sono, non diremo fascisti, per un po' preciso, ma la condizione della donna è una condizione molto, era specialmente, adesso un po' meno subalterna. Il digitale favorisce questo perché le ragazze sono più brave. Le ragazze sono più bravi dei maschietti e questo dà loro un potere, un prestigio. Per cui può sembrare un paradosso, ma il digitale sta favorendo una relazione tra i sessi diversa da quella tradizionale. E poi questo uso del digitale favorisce la registrazione, anzi favorisce la autorappresentazione, che è un grande tema di questa parte del corso. Cioè le culture indigene, grazie appunto al digitale, possono autorappresentarsi, possono rappresentare i loro rituali, le loro musiche, le loro danze, nella loro propria autonomia. Cosa che con l'analogico era complicatissimo, perché l'analogico sono macchine complicate, pesanti, si rovinavano e via di seguito, mentre invece il digitale sono più tutti, ne vedi subito la rispondenza. Paolo, che è stato poi presente nel video successivo, le macchine fotografiche digitali hanno un fascino per i bambini perché a differenza di quelle analogiche, non sapete nemmeno, tu vedi subito la fotografia. Allora, questo vedere subito la fotografia è un divertimento per i ragazzini, per i bambini anche, no? Per cui c'è un aspetto proprio ludico che il digitale favorisce e che l'analogico di questa non arriva. Bene, questa è una scuola, come dicevo, sciavante. Ecco, vedete i bambini, sciavante. Vedete questo intreccio, quando vi parlo di sincretismo culturale, di ibridizzazione, vedete qui i codici loro, i capelli, si incrociano con le tecnologie. Più che omologazione, che è un termine secondo me veramente profondamente sbagliato, qui c'è una dimensione ibrida, sincretica tra codici differenti. Quindi vi invito, se vedete appunto una popolazione, diciamo nativa, con vestiti uguali ai nostri, non pensate che sono omologati. Questa è una superficialità, è molto superficiale. Le cose sono più complesse. E allora la sfida dell'antropologia è anche penetrare dentro questa complessità e per fortuna ci possiamo penetrare insieme a loro, non su di loro. Quindi la ricerca la possiamo fare insieme a Sciavante e Bologna, non su di Bologna come era fatto in passato. Qui vedete un'altra immagine. Ecco, questi sono gli stessi bambini, vedete, questa era la bambina che viceversa era aveva i tratti iniziali di quel rituale che dicevo della trasformazione delle orecchie, vedete questa coesistenza e parte significative ecco, della cultura sciavante anche per loro. Questo per dire, ecco, se io fossi un regista di cinema, questo è un altro professore, guardate, questo è veramente un attore nato, lui non lo sa probabilmente, ma io ovviamente gli farei entrare se avessi il minimo di potere. Quasi che la storia del cinema aspetti qualcuno che parla pure, che faccia fare veramente l'attore, e che non solo l'attore ma anche il narratore della sua cultura, grande e bellissima cultura. Ecco, vedete, queste pure sono, vedete qui l'aspetto di però di sincretismo culturale. E questa è la capanna loro, vedete? C'è anche un'altra immagine, ecco. Qui è Domingo, vedete, Domingo sta qua. Vedete, questo è Domingo, questi sono i suoi nipotini, questa è la moglie, questa è la classica capanna sciavante che è ancora continua, quel luogo qua, la vettoria, quindi si protetta i centri, forma circolare. E queste sono le scuole. Le scuole hanno la forma, vedete, la base è di mattoni e cemento, il tetto a volte di vaghi, a volte non dipende, qui è di mattoni. Dentro c'è l'aula. È un'aula, ci sono le lezioni, quindi un altro livello, e questo è sempre Domingo. Se vedete, Domingo qui sembra proprio Malinowski, non fa il cappello da antropologo, un po' così da tempo, no? Attaccato alla cima. In un clan differente ci sta Divino. Divino, se bravo, Divino è veramente una figura centrale. Divino è il regista. Cioè, un mio conosciuto, un amico, un collega di origine italo-francese, ma abbastanza carenti, ha avuto l'idea, insomma, il miglior antropologo vivente, ha avuto l'idea anni fa di mettere in piedi una struttura che si chiama Rio Nas Alveia, cioè il video dei villaggi. E ha cominciato a lavorare non su, ma insieme a alcuni giovani. E i giovani più sensibili si sono subito messi insieme a lui e fanno dei film bellissimi. Divino fa veramente dei documentari divini, diciamo, veramente straordinari. Li fa non solamente nella sua cultura, perché il sciamano avviene chiamato anche a fare documentari in altre culture. E io purtroppo non ho tempo, ma avrebbe fatto tanto invece di mostrarvelo uno che dovrebbe fare una ventina di minuti in un contesto di conflitto con l'esercito brasiliano, veramente un documentario straordinario. Vediamo se lo diciamo. Insomma, Divino che tra l'altro per disgrazia, lui veramente grande il tavolo, ci sta un problema di occhi, purtroppo si stava curando gli occhi. Ora, la cosa più straordinaria, un'altra cosa straordinaria, dentro una capanna di quel tipo che strato, quella di Domingos, dentro c'è tutta la tecnologia più avanzata di vino con cui fare montaggio. Perché lo sapete meglio di me, il vino io posso filmare un rituale, ma il linguaggio fondamentale è nel montaggio. Quindi è l'editing. Perché se l'editing non lo faccio io, ma lo fa lui, così dice, cavolo è tutto. Invece il vino non solo filmava, ma faceva il montaggio giustamente dentro la capanna, nel senso proprio capanna, come avete visto, dentro tutte le tecnologie più avanzate per fare il montaggio. E lui c'era questa copresenza, capite, di digitale più avanzato, di una struttura di capanna che era quella indigena. Quindi praticamente è sempre mix libri che si cresce. E qui finisce, diciamo, questa mia introduzione. Accanto agli Sciavante ci sono i Borotti. E questa area di Mato Grosso, che se faccio vedere, con dei Bororo, che non conoscevo, mi gli danno un regalo molto prestigioso, un poco d'oro, sono unghie di armadillo incollate al centro con della pece, e poi con una cornicina rossa, diciamo, un profondo significato mitico religioso questo oggetto, e per me poi c'è ancora più grande emozione, portavo due, una dava a me, l'altra dava a Levi Strauss, perché Levi Strauss, come sapete, aveva studiato in Colombo, prestigiosi, e quindi andavano dopo a Parigi a dare lo stesso regalo alle risposte, e insomma mi hanno invitato proprio nel villaggio, loro vivono nel villaggio che Lévi-Strauss analizzò negli anni 30, e per me diventò un'occasione straordinaria, perché c'è Leonida, di cui poi vi parlerò, che è Leonida, il club, per me si presentò un'occasione importantissima, no? Per cui decisi di accettare il loro invito e andare nel loro villaggio. Quindi ho fatto fare 3-4 escursioni al loro villaggio. La prima cosa, che la seconda, insomma, che mi ha colpito tantissimo, questa è il contesto ecologico del Mato Grosso, che prima era selvaggio, non è Amazzonia, non ci sono grandi alberi di alto fusto, però ci sono alberi, e adesso è diventato questo, cioè è diventata soia, perché la soia sta diventando, la chiamano il mare verde. Io sapevo, ma il regino dice di no, che da qualche anno in Brasile, penso, l'avevo tolto, in Brasile sapevo che era diventato un po' di anni il maggiore produttore mondiale di soia, invece ancora l'Argentina produce più soia, non so se sapete, ma tra argentini e brasiliani c'è una vecchia competizione, ma andiamo al di là, E questa soia riescono a fare 3 raccolti l'anno e diventa una grande ricchezza. Allora che succede? I fazenderos, da fazenda, cercano di allargare a dismisura la loro penetrazione di terra, e dove devono attaccare? Nelle riserve. Le riserve indigene sono vaste, sono grandi, e loro cercano di contrattare, di convincere queste persone, la loro sciavante, per favorire la coltivazione della soia, dicendo che danno dei soldi, insomma tutta questa serie di conflitto politico. Poi veramente il paesaggio, non penso perché non è consecutivo, lo facciamo così. Ecco, queste sono le novità federali, questo è tutto panorama che sta vicino, circonda le Aldeias, Valore Sciavante, i grandi silos di soia, con enormi file di camion, che caricano quando è il momento del raccolto, caricano la soia e la portano dove la devono portare. Ecco, vedete la soia. E praticamente vado la prima volta a Meruri. Allora lì, in questa area, ci sono due villaggi in Colombo, che siamo Meruni e uno Garzas, che poi troverete, se non vi darò la scheda, ma sta anche nel libro. Questo è Meruni. Pare che il nome sia derivato da questa collina, che è da fondo il nome. E già vedete qui, ci sono alberi, la frutta, e non solo, che circondano il villaggio, sono nel villaggio. E vedete che anche questo è un campo di calcio che sta un po' al centro del villaggio. Lei è Leonida, vedete? Lei è un'esperta, una grande artista artigiana. Questa immagine per me è molto bella, anche perché c'è una coesistenza dei codici tradizionali e innovativi, no? Di una bottiglia di plastica vuota serve come, perché essendo curva favorisce la collocazione delle piume, parte plumare dell'oro è straordinaria, e io mi sono conservato dentro di tutte le piume, e lei li incolla, con la colla che sta lì, che è presa in resina, una resina che sono gli alberi, incolla le piante e le foglie per creare. Ecco qui, vedete dall'alto. E lui è Kleber, che vi ho fatto vedere prima. Kleber gestisce diverse cose, e cui particolarmente la dimensione video, che dentro questa parte del villaggio di Veruni, dove ci sono anche i salesiani, lui mi mostra un rituale coloro, da lui filmato, che rappresenta questo rituale di qualche anno fa. Già questo per me era importantissimo, cioè io arrivo al villaggio coloro ed è ancora lo stesso, e mi mostra le immagini in cui lui si è rappresentato. Cioè, sembra quasi un rovesciamento di quello che dovrebbe essere l'ordine accademico tradizionale. Ecco, vedete. Che film, qui c'è un rituale che si chiama di nominação in portoghese, cioè sono anche dei bambini, vedete, i bambini viene dato un nome, qui c'è il padrino che lo innalza, viene dato un nome, dice la madre. Rituale molto significativo che poi avrebbe avuto un'importanza, una felicità, eccetera, eccetera. A un certo punto, ecco, qui ci sono dei dolci preparati per la festa, insomma, che polvere di riso. Salesiani, in cui vedete Cristo, e e Barbara a me colpisce perché ha le viti che non sono abitate, non sono aperte. Qui c'è questo giovane missionario salesiano che veniva da San Paolo, una persona molto ingenua, con cui avevamo discusso tutta la notte se era giusto fare il funerale salesiano, d'accordo oppure no, insomma i temi che potete immaginare rispetto alle differenze, ma insomma qui la cosa appunto è molto delicata perché la religione cattolica negli anni 60-70 aveva attraversato, dopo il Concilio Vaticano, aveva attraversato un momento di grande innovazione per cui i missionari non andavano a evangelizzare, i missionari andavano ad attestare la loro fede di fianco a queste popolazioni. Avevano messo in discussione l'evangelizzazione. Ma per questo sarà chiamata poi teologia della liberazione, che è una grande, importantissima storia, non solamente religiosa, storia di tutto il popolo dell'umanità. Successivamente i teologi della liberazione sono stati costretti a ritornare nel modello classico, cioè evangelizzare. E devo dire la verità, quando era ancora che era segretario della Santa Sede, non ricordo il sacrificio, no, era il ministro degli esteri del Consiglio italiano, che costrinse tutti i teologi della liberazione a prendere, a ristabilire la missione evangelizzatrice della missione, oppure essere espulsi dalla Chiesa. Alcuni infatti sono espulsi. Quindi chi è rimasto dentro la Chiesa cattolica ha dovuto riprendere l'evangelizzazione, che è un problema molto grave. Dal punto di vista antropologico, lasciando stare le altre questioni, la religione cattolica ha tutta una serie di visioni del mondo, del peccato, che sono diversi dalla religione loro specificamente. E quindi il problema è che tipo di problema si pone, perché il tipo di problema si viene a porre in questo nell'evangelizzazione, uno dei tanto problemi non solo la morte, ma anche il concetto di peccato. Che il concetto di peccato non apparteneva a queste culture. No? E nelle capanne che vi ho mostrato, nel video che vi mostro di nuovo, in queste capanne non c'erano delle divisioni all'interno, per cui i genitori avevano rapporti sessuali. Oppure anche fuori, insomma, non c'era un vincolo peccaminoso sul fare l'amore, diciamo, dentro la cavagna. I missionari, nella strada dei nudi, i missionari hanno cominciato a dare tutta una serie di regole su questo, e la regola principale, una delle, era proprio la casa. La casa non poteva essere dove tutti stavano insieme a tutti, per cui non so se è chiaro, adesso lo dimostro, vedete? Il villaggio Bororo, che era circolare, poi lo mostrerò meglio, qui è a sette, è a forma di sette, le case sono case più o meno tutte quante di mattoni, come questa qua, guardate. Qui lo vedete meglio, sono tutte case quadrate, anche queste caldissime, perché lì quando è caldo e non hanno l'aerazione, le capanne fanno filtrare l'aria e quindi vi è sempre del fresco all'interno, invece qui si muore di caldo quando è caldo. Qui vedete anche la divisione della missione delle cerve, la missione di caldo. Questa è una casa più o meno classica di questo tipo qua, no? In cui vedete la televisione, questo banchetto di scuola, eccetera, e c'è sempre questo mostro per le pareti, dove c'è la separazione. In questo modo i coniugi, la coppia, il marito e moglie, poi loro hanno appreso dai missionari che l'amore si fa nel proprio, nella propria stanza. Perché sennò è peccato. E questo probabilmente potrei capire bene, implica tutta una serie di trasformazioni molto forti dal punto di vista della visione del mondo, dei rituali, perché poi l'amore non è semplicemente fare sesso, è qualcosa di complesso che stabilisce rapporti con le visioni del mondo, e per esempio, quindi intaccare la dimensione del peccato, no? Ecco, il peccato è una forma dualista, il peccato è il dualismo, nel peccato tu c'è il bene e il male, c'è cioè chi sa chi pecca, insomma ci sono processi in cui quella che sono il sistema di valori di cultura locale vengono eliminati per favorire questa eurocentrizzazione, per un modello culturale altro. Questo per me è una forma nuova, ma io continuo a chiamarla, ma mi dispiace perché la penso bene, ma questo è poi il pensamento, è colonialismo. Quindi abbiamo tuttora delle forme coloniali in cui l'evangelizzazione è una di queste, la penetrazione della soglia è un'altra, quindi abbiamo questi boroni, questi sciamani che sono attaccati, diciamo così, da due lati, i faseneros che vogliono penetrare dentro le riserve per coltivare la soglia, i salesiani che dipendono dai faseneros, quindi i salesiani non sono semplicemente, diciamo così, riproduttori di valori cristiani cattolici, sono anche persone che difendono i loro, questo è importante, voglio sottolineare, difendono dai caseteros, portano medicine, insomma hanno un'attenzione a che si fa. Nello stesso tempo si trovano in tensione, in conflitto tra l'assedio casetero, la penetrazione della cultura diciamo, digitale e l'assistenza complicata dei salesiani. La complicata assistenza e presenza una che ha fatto dei salesiani. Questo è il problema. Professore, ma vivono passivamente tutto ciò? Cioè, accettano senza... No, non passivamente, è una cosa complessa, è una cosa molto complessa. Ci sono alcune culture, per esempio, che rifiutano questa relazione di essere assistiti, appoggiati, aiutati dai salesiani. Per esempio, i Caramoto sono stati in un altro contesto, non c'è la presenza salesiana, capite? Quindi dipende. I loro sono più deboli nell'accettazione dei salesiani, perché sono più deboli politicamente. Gli sciamani hanno una parte senza salesiani e una parte con i salesiani. C'è una parte dei sciamani, dei villaggi sciamani che sono totalmente autonomi, hanno ristabilito per così dire la loro autonomia religiosa, culturale, eccetera. Un'altra parte, di cui Domingo poi è un altro rappresentante, che viene a patti con i salesiani. Quindi è una cosa complicata, non è una cosa semplice. D'altronde non spetta a me in questo caso intervenire direttamente, a me spetta di capire, di intendere, di mettere di lato e cercare con molta delicatezza, moltissima delicatezza, di favorire le posizioni che io credo più giuste, ma con grande delicatezza, figuriamoci poi. Questo diciamo sì, è un inizio di contesto. Non potevo fare sempre così. E avviene appunto, come dicevo, questo funerale. Questo è un prete, questo è molto giovane, che veramente era ingenuo, si mette a fare una predica, c'erano pochissime persone, eccetera. Però siccome dicevo c'erano queste figlie che stavano fuori, e lì viene questa storia, che alcuni coloro che decidono, specialmente in passato, e fanno ancora adesso, di fare il funerale cattolico, la Lara andava nella chiesa, nella missione, c'era il rituale, ma il cadavere non stava dentro la Lara. Il cadavere stava al cimone dove si svolgeva il rituale tradizionale. Dentro la Lara c'erano dei sassi avvolti in dei panni. Per cui questo è un altro esempio di come in coloro cercavano di trovare una soluzione complicata a ciò che non è facile, cioè non inimicarsi direttamente i salesiani e nello stesso tempo cercare di mantenere in questa ambiguità la loro religione, la loro cosmogonia. Quando i salesiani si sono accorti di questo trucco, diciamo così, un trick, hanno chiesto che la barra venisse aperta fuori la chiesa, perché lì devono controllare se c'era il cadavere nel travaglio, se non c'era. Quindi questo è, diciamo così, la premessa in cui, direi qui, sa che manca poco, in cui io mi trovo in una situazione, dicevo, perché di estremo imbarazzo e perplessità, perché io ho naturalmente dei valori, ma non posso naturalmente presentarmi come io vorrei, devo essere discreto, ma non posso neanche assente, non posso essere oggettivo né neutrale, quindi mi si presentano tutta una serie di modelli per me difficili soluzioni. Ecco, questo forse non, ecco, questo è il danno valore. Il bilancio colono classico è questo qua, quindi totalmente diverso di questo assente, ed è a Garzas, cioè nella stessa strada statale, a destra c'è Veruri, a sinistra c'è Garzas. Garzas ha una forma ancora tradizionale. La forma tradizionale che è data da non solo dalla circolarità, ma al centro, un po' eccentrico, qui è la casa dei uomini, che si chiama Baito. Baito, la casa dei uomini. La casa dei uomini, perché qui, appunto, in genere ci vanno solamente gli uomini, a volte le donne sono ammesse durante il funerale, per esempio, oppure di nascosto, se qualche giovane ragazzo non sposato vuole fare l'amore, una ragazza che lo voglia fare altrettanto, va dentro la casa dei uomini, insomma, c'è anche un modo risolvere alcuni problemi amorosi. Comunque è una classe di uomini, non casualmente centrale, e questo aspetto cosmico, cosmogonico, religioso, simbolico del villaggio circolare è determinato anche dalla divisione in clan. La divisione in clan è molto complicata, ve la provo a vedere per la prossima volta, però non è che la devi sapere. È molto difficile, ci sono due grandi clan che poi a sua volta si suddividono in quattro clan, quattro e quattro, e poi diventano ancora sub-clan. Ma insomma, grosso modo, un bororo maschio che nasce qui si sposa una ragazza bororo che nasce qua e transita da questa zona, che è la sua zona costante, perché sono matri locali. Ricordate, matri locali, non è matri locali, cioè il rapporto familiare si svolge dove è il luogo della famiglia, della moglie, dove lui in gran parte è lo straniero. Ecco, questo è. Quindi capite che se i salesiani o i rasenderos o qualsiasi altra forza elimina questo aspetto circolare, che è cosmico, è rapporto di parentela, è filosofico, ha tanti significati, e fa diventare assente, quindi spezza questa circolarità e cambia profondamente la cultura locale, la cambia profondamente. Quindi non c'è un aspetto appunto naturale. E allora, insomma, la situazione, quando io sono tornato una seconda volta, ecco, vi faccio vedere questa immagine che pure è molto toccante, questa è la, mi pare, la sorella della morta, di cui come tale, la mano molto povera, la testa qui piange. Quindi mostro anche le case che a me piacciono vedere, sono dei termini, tempi, fanno queste case di campo che hanno forme quasi artistiche. Questa è, diciamo così, la situazione. La situazione poi si ricambia, proprio l'anno successivo mi si dice che sta per esserci un funerale. E da lui io sapevo che il funerale parola è una delle cose più complesse e anche affascinanti, se volete, dal punto di vista antropologico, quindi cerco in tutti i modi di andare lì, cose che erano molto complicate dal punto di vista della storia personale, però insomma in qualche modo riesco a trovare sia la mia soluzione, no, sia le mie dimensioni affettive, amorose, ma riesco anche a trovare una soluzione a come entrare dentro il villaggio in valore questa volta, perché l'altro villaggio è quello che dicevo, la forma circolare, è Gazas, dove le cose sono più complicate. Allora, per entrare lì, io avevo capito che c'era un problema, non qua. E dopo domande, eccetera, ho scoperto che mi si chiedeva un dono per entrare. Io già vi ho detto dell'importanza del dono, no? Il dono non è un semplice pagare, dare delle cose per avere delle cose, appunto, benefici. Il dono ha una matrice profondamente legata al concetto di scambio, non economico, ma è un dare per ricevere per dare costantemente. Quindi io devo fare un dono per essere ammesso, per avere l'altro dono di essere ammesso del mio villaggio. Quando capisco questo, lo capisco, praticamente è una vacca. Allora io capisco che il dono che devo fare per entrare è una vacca, perché la vacca che è legata alla carne e sono pure che amano mangiare carne, che purtroppo ne possono mangiare poca, e quindi rappresenta una festa per loro, del distribuire dentro il villaggio della carne fresca di vento. Quindi è grazie a questo dono che io riesco a entrare dentro il villaggio e quindi anche avere la possibilità di fare questa ricerca, una ricerca che proprio fin dall'inizio aveva, proprio perché le cose diventano più complicate, un'ambizione molto forte, che era questa. Creiamo un'equipe di ricerca basata, che io dovevo coordinare, con alcuni giovani antropologi, che vi avevo detto, ma anche con due coloni, Kleber e Paulini, perché in questo modo la ricerca è basata sul rapporto tra auto e etnorappresentazione. Cioè non erano solamente noi che andavamo lì a fotografare o a filmare, ma principalmente erano questi due coloni, Kleber e Paulini, a filmare, a rappresentare. Noi interagivamo, cioè era un rapporto dialogico e costruivamo insieme questa polifonia di sguardi e di registrazione, se volete, il senso del funerale. Questa era l'ambizione del progetto, che poi come vedremo in parte non funzionerà. Entrando nel villaggio, quindi, questo altro villaggio, non nel primo di Veruni, vengo introdotto nella capanna dove c'è José Cargos, che è il maestro dei campi, che io ho già conosciuto e che è una persona davvero molto dura, molto dura. Era anche la più alta autorità, perché quello che noi chiamiamo sciamano, che si chiama Paige, poi vi farò vedere, sono questi Paige nella lingua loro. Il Paige ha una funzione straordinaria. Il Paige, come sciamano, è l'intermediario tra l'uso dei beni che non sono veri, tanto per capirci, tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, tra il mondo della divinità e il mondo dell'umanità. Non sono veri, perché non è così semplice, non è così buonista, capito? La religiosità al loro. Il Paige ha certamente la capacità di divinare, alla divinazione, riesce a anticipare il futuro, riesce a curare dalle malattie e riesce attraverso l'alterazione a esplorare i vettori invisibili, chiamiamoli così, dove avvengono le grandi sfide sulla vita, morte, disastri naturali, siccità, eccetera. Allora, questi tre aspetti sono stati messi radicalmente in discussione dalle contemporaneità, cioè la divinazione di minare quello che potrà accadere in un contesto basato su tecnologie, cioè non funzionava. Per cui, e la divinazione poi è poliseria, non so se mi capite su questo, la divinazione è poliseria, nel senso io posso anche dire sì, succederà questo, però poi posso dire che se non accade perché lui per esempio ha fatto un'azione non corretta nel rituale. Sì, certo, posso dire, si dice ancora adesso, però se ogni volta che io faccio una divinazione sbaglio, non accade, se anche una volta, due, tre, è chiaro che perde autorità anche sulle medicine, perché il Pagè aveva una grande capacità di curare con le erbe, attenzione, quindi tutta quella che noi chiamiamo fitoterapia, cioè curare le persone con le erbe, queste persone ne hanno una grande esperienza. E tra l'altro, non so se lo sapete, vi sono interessi fortissimi di multinazionali negli Stati Uniti, che cercano di impossessarsi di queste terre, di queste erbe, di farne il copyright, per così dire, e farne il prodotto di medicina industriale, per cui non siamo a un livello come di fantasia, è la fitoterapia, sono veramente erbe che grazie a un'esperienza millenaria curano alcune malattie, ma non curano una cirrosi epatica. Allora, la forza del Pagè come medico trova naturalmente il limite in alcuni tipi di malattie. Mentre prima queste malattie erano risolte se incurate, sempre nel modo che dicevo, un rituale fosse sbagliato, la persona, attualmente con le nuove medicine allorate che mettono in discussione questo potere del medicine man, che si chiama medicina. E allora la capacità di transitare tra mondi diversi a trans messa in discussione, per cui insomma c'è una difficoltà, poi ci sono i sacerdoti, i missionari, insomma c'è una difficoltà a avere nuovi sciamani, perché lo sciamano normalmente è prescelto senza la sua volontà, cioè comincia a avere appunto delle visioni che non sono sogni, appunto. Cioè un sogno è un sogno che anticipa, i sogni fanno parte dell'esperienza quotidiana, quindi la forte capacità di sognare e di avere visioni sono sintomi di possibili paesaggi. Solo che questi sintomi, questa selezione, si autoselezione, entra in difficoltà. E quindi ci sono sempre meno sciamani che implica di poter immaginare un altro problema enorme. No? Se l'assenza di una figura così significativa implica un altro crisi del modello filosofico, antropologico. Quindi Giuda Carlos, il maestro dei canti, i canti quindi non sono semplicemente canzoni, i canti hanno anche una profonda dimensione cosmologica. I canti ci accompagnano la vita e la morte, la festa, quindi sono profondamente costitutivi del cosmo. Il canto. Uso questo termine, poi è sbagliato, canto. Musica. Tutti i termini molto problematici. Allora, io vado di fronte a Giuseppe Carlos, che è una ragazza, e lui mi inizia a parlare in modo molto duro, dicendomi tu stai lì Italia, dall'altro lato non si potrà mai essere parte dell'agricoltura, io sono Borobbi, diciamo, con un bastoncino in dentro traccio una linea di polvere, da qui il titolo del libro, una linea di polvere, tu stai qua e io sto qua. Questa linea ci dividerà sempre l'uno dall'altro, non saremo mai uguali. E me lo dice non nel senso bello di non essere uguali, ma nel senso proprio di affermare una distanza. Allora perché questo mi dà una grande agitazione, una grande sfida, come affrontare questa separazione, perché in antropologia, come vi ho detto, si cerca di intermediare, si cerca di dialogare. Ma se la persona più significativa mi blocca dicendo tu stai qua, io sto là, implica una divisione molto forte, questa divisione si può affermare ancora di più nel villaggio e quindi io non riesco a, non solamente non riesco a fare il lavoro, questo è un po' significativo, ma non riesco a fare la ricerca con il gruppo che abbiamo detto che cercava di risolvere non più l'etero rappresentazione, ma l'auto, o meglio dire, una tensione tra auto e dentro una presentazione. Questo è, diciamo così, il contesto abbastanza complesso all'interno del quale mi trovo che si accentua da un'altra notizia che io sapevo, che diventa ancora più drammatica. La morta è la moglie, era la moglie di Giuseppe Carlos. Quindi la morta, la persona morta non è la persona così normale, no? Una persona normale quando muore, ma in questo momento era ancora più significativo. Lui era il vedovo. Dopo più di 30 anni di convivenza con la sua donna è morta, sta lì al centro del villaggio. Che è successo? Che è successo? Protegge, giustamente. E sta al centro del villaggio. Quindi io mi trovo ancora più con una difficoltà anche umana, perché non è solamente per ricerca, ma anche umanamente. Io che avrei voluto istintivamente dimostrare il mio dolore, non potevo più fare. Ovvero, come affrontavo i miei sentimenti e le mie emozioni? Capite? Quindi una complessità di elementi mi si sono presentati il giorno prima che iniziasse questo ritorno. E quindi comunque se dice fosse Carlos. No, Giuseppe.